Sì, sei buffo! Infamone! Quella merda! Ma tu mi stai facendo messaggi, mamma mia, ecco, mamma si là. E vai, muori. Ma perché non fa un piacere a tutti e ti lanci dal ponte? Infamone! Ma se mi fai vedere come si fa, lo posso anche fare. Che problema, tu dimmi cosa devo fare e io lo faccio. E io? Amico, come si fa? Buttati tu prima così, poi se... Se vedo che fai splash, lo faccio anch'io, dai. Ah, solo se faccio splash, però. Se no, ho perso. Che vuole entrare avanti? Buona, buona, la pasta al forno! Luca Buffo! Sì, grazie, ha fatto la pasta al forno il sugo con i piedi d'agnello. Ehi, me l'ha fatta vedere, mi ha mandato la foto. Buona, buona! E tu così buono riesci a farla, vai. E fine, amacco. Oh, gaggio, ma la mozzarella da nanno in spizza l'hai presa. La mozzarella l'ho presa da... E ne compri i piedi di agnello tu. Cazzo, i piedi di agnello niente si è data, Graziano. Aiuta, cazzo, cucci murru. Ah, bene, sto aspettando salsiccia. Lussuria. Attento, lussuria. Cazzo. Ehi! Ma che sto cuffo? Ma tu sei tutto che ti dà posto la venenza a tu? Infamo! Ehi! Non la lasci la pasta al forno, ma rompi! Un cuffo! Fate via le pagnotte! E rompi! La marina! E lu! Domingo sei! Avanti già mi figli la pane. Vabbè cazzo, poi soggetto. Ehi, Epe, ora è la pasta in forno. Luca. Marino, ci sei in ascolto? Ciao Giulio, no Marino qui non sei. Ah, ciao grazie, vabbè dai. Adesso sono lontano dal baracchino, non posso, anche se c'è il volume altissimo, però non posso parlare dal baracchino. No, io l'ho staccato la 27, anche che la via in cucina è andata la banca. Ho capito, vabbè, fatela, casomai già il telefono. Era la 27, Mario. Ma sono lontano adesso dal baracchino, non posso parlare al baracchino in questo momento. Ah, ok, chiama l'altra del Paolo. Ok, ciao. Ciao, ciao, grazie, alla prossima. Vai tu, vai. Yeah, yeah. Sulla frequenza. Bravo, io ci sì. Ok. Amore. Non vorrei desperarsi. Ma un film a cielo. Dov'è Cento? Un film a cielo. Quarcioli. Tu rispondi la verità. Mi guarda a fare appunto la mamma, da voi mi dico. Ma poi ricendi, no, stai lì. Quando c'è certo che dice, ma sono in pigiama. Poi le babbucce. E lui.